Restiamo animali. Trasmissione cruelty free, animalista, antispecista e vegan. Ogni domenica alle 12 su Controradio e nel quinto elemento su controradio.it. Contatti restiamoanimali@controradio.it. È domenica 3 novembre 2013, la 123esima puntata di Restiamo Animali, la trasmissione per vivere, pensare e agire cruelty free. Nella puntata di oggi affronteremo molte questioni. Per l'attualità ci rallegreremo di un prestigioso premio scientifico andato a un progetto che utilizza, invece di poveri animali indifesi, tessuti umani, che tra l'altro vengono donati con slancio e anzi direi con gratitudine da persone decisamente volontarie. Non rivelo di più e vi lascio un po' di suspense. Torna stavolta la rubrica a cura di Anna Maria Rivera, la nostra scrittrice antropologa di riferimento, per le sue profonde e illuminanti connessioni tra sessismo, razzismo e specismo. Commenteremo con lei una pubblicità sessista e specista molto molto italiana. Ci compiaceremo poi per la ribalta che sta avendo in Francia un manifesto per i diritti animali recentemente sottoscritto da molti intellettuali francesi, a riprova del fatto che certe granitiche certezze possono forse venire scalfite. In fondo basta volerlo. Per la rubrica Il Pasto Gentile, condotta dal nostro chef cruelty free Gabriele Palloni, ci gusteremo una tortilla de patas, una versione della frittata cruelty free, che proponiamo come nuovo e anche ben più virtuoso simbolo della Spagna, essendo che la corrida a noi fa francamente orrore. E daremo spazio alla nostra corrispondente da Roma, l'ottima Francesca De Matteis, che ha seguito per Restiamo Animali i lavori di una conferenza dedicata alla questione animale, che troviamo particolarmente simbolica in quanto si è svolta presso la Biblioteca del Senato Giovanni Spadolini e precisamente nella sala degli atti parlamentari. Tra i relatori troveremo anche personaggi molto legati a questa trasmissione. Il mondo dell'animalismo è piccolo, oppure forse questa trasmissione sta diventando grande. Animal House. Notizie, interviste, attualità. Per la prima volta l'Ordine Nazionale dei Biologi conferisce un riconoscimento alla ricerca che non fa uso di animali. Il prestigioso premio DNA 2013 è stato assegnato, e cito testualmente, per la rilevanza e l'impegno profuso in importanti progetti di ricerca scientifica, alle biologhe Michela Kuan, responsabile della LAV, Legantivi di Sezione, e Susanna Penco, ricercatrice del Dipartimento di Medicina Sperimentale dell'Università di Genova, in occasione del 25° Congresso Internazionale dei Biologi, tenutosi a Firenze e dal titolo Tradizione e Innovazione, le diverse realtà della biologia. Ne parliamo con Michela Kuan, responsabile del settore vivisezione per la LAV, biologa e nutrizionista. Sì, è stato sicuramente una bellissima sorpresa, un grande riconoscimento verso la LAV, quindi l'associazione che rappresento, e soprattutto un segnale di cambiamento culturale scientifico. I metodi alternativi in realtà sono stati validati, riconosciuti da più di 50 anni, quindi sono un'ovvietà da un certo punto di vista, che fatica a essere oggettivamente preso in considerazione come metodo di riferimento. La legge, sia quella europea che quella nazionale, da moltissimo tempo supporta uno sviluppo dei metodi alternativi, li vedono totalmente prioritari rispetto al modello animale, però di fatto esiste un gap culturale molto grave legato al fatto che i ricercatori e i futuri ricercatori non li conoscono e devono andare all'estero eventualmente per informarsi. Quindi il fatto che l'Ordine Nazionale dei Biologi, quindi la categoria più coinvolta in quello che è il fenomeno della sperimentazione animale abbia voluto dare questo importante segnale è sicuramente un passo in avanti e un forte segnale o comunque voglia di mettere in discussione quello che è un metodo che ha più di 100 anni. Nel 2013 è giusto che una categoria così importante abbia voluto dare questo tipo di messaggio e voler implementare la ricerca che è comunque già un dato di fatto in altri paesi. Gli altri paesi stanno investendo in questo tipo di metodi che l'Italia purtroppo per l'ennesima volta rischia di rimanere indietro. Il premio, che è stato di 5.000 euro, andrà a finanziare un progetto che fa parte del team per cui lavora la collega, anche lei premiata, Susanna Penco, l'Università di Genova, ed è un progetto molto bello perché lavora sulle staminali derivate dall'iposizione, quindi da volontari ben coscienti e contenti di dare questo tipo di tessuto via, che vengono riprogrammati e poi utilizzate per testare delle sostanze. Quindi si è messo a punto questo protocollo, c'è la potenzialità di utilizzare in tanti vari tipi di test, quindi non è un singolo metodo alternativo messo in via di sviluppo, ma è la possibilità di utilizzare un test per vari tipi di applicazione. E dall'altra parte questo segnale, questa presa di posizione da parte dell'ordine è stata molto coraggiosa in un momento di grande dibattito sulla vivisezione, in un momento in cui chi utilizza animali ha disposto posso mettere la faccia ed è sceso letteralmente in piazza per difendere questo tipo di modello, una posizione che io considero veramente assurda, perché se la legge per prima dice di vedere come prioritari assolutamente necessari metodi non animali, non basati su animali, non capisco questo ostruzionismo che va realmente controcorrente anche sul piano legislativo e politico. Quindi non è qualcosa voluto dagli animalisti, ma qualcosa dovuto per legge. E dall'altra parte si sposa con l'implementazione di metodi alternativi voluto anche dall'articolo 13. A livello europeo vige un testo comunitario che è il numero 63, entrato in vigore nel 2010, mentre a livello nazionale, come Stato membro, non abbiamo ancora recepito questo testo. Quindi ci troviamo nella grande e unica possibilità di avere un decreto legge, quindi un testo di legge nazionale che sia oggettivamente migliorativo per la vita di questi animali, perché noi continuiamo a parlare di 12 milioni di animali che vengono allevati, utilizzati, uccisi, violentati fisicamente e psicologicamente tramite procedure ritenute scientifiche, quindi un numero abnorme, ingiustificabile di animali che vengono utilizzati e sottolineo che non vengono usati per fare iniezioni per rilievi come si sente spesso dire, ma vengono utilizzati in qualsiasi tipo di ricerca, viene autorizzato di tutto, non c'è limite al tipo di dolore che io posso andare a inferire su un animale. Questo significa anche trapianti di organi senza anestesia, significano rotture, ustioni, abrasioni, bruciature, spaccature craniche. L'articolo 13 in vari punti va invece a supportare lo sviluppo dei metodi alternativi, che significa dare, investire soldi, significa fare formazione sulle persone che saranno il futuro della ricerca, e quindi l'Ordine dei Biologi in realtà non ha fatto altro che unirsi a questo trend che è voluto dalla politica, è voluto dall'opinione pubblica, che più dell'87% degli italiani si è dichiarato contrario alla sperimentazione animale, ed è voluto anche a livello scientifico. Esistono moltissimi centri di eccellenza in Europa che lavorano su metodi alternativi, ci sono potenze come l'India, il Giappone, la Cina, che si stanno affacciando su quello che è il business legato all'industria chimica, anche farmaceutica, cosmetica, di tutto di più, e l'Italia non è presente da questo punto di vista, è totalmente silente e continua a utilizzare un modello della fine dell'Ottocento. Quindi al di là di quello che è il coinvolgimento morale, che è assolutamente dovuto verso l'animale, che è proprio un problema di ricerca, di avanzamento di quelle che sono le metodiche che sono effettivamente utili per l'uomo, che trovano investimento economico e investimento dal punto di vista lavorativo, quindi menti, persone, laboratori che vengono convertiti da utilizzo animali a tecniche innovative in altri paesi, e l'Italia, che ha le università più antiche del mondo, continua invece purtroppo a vivere una situazione di crisi anche da questo punto di vista. Si è appena concluso il convegno intitolato La questione animale, dove è stato presentato il volume intitolato appunto La questione animale, curato da Silvana Castiglione e Luigi Lombardi Vallauri nel trattato di biodiritto, collana diretta da Stefano Rodotà e Paolo Zatti. Si tratta del primo grosso trattato di bioetica e biodiritto che dedica attenzione agli aspetti anche giuridici della questione animale. È un volume di circa 1000 pagine dove si parla degli animali, come dice Luigi Lombardi Vallauri, secondo 11 dimensioni. C'è dentro veramente di tutto: allevamenti industriali, pet therapy, xenotrapianti, mente animale, caccia, sperimentazione, relazione affettiva, alimentazione. Tutte queste cose vengono assolutamente discusse. Per esempio, per il vegetarianismo io ho costituito un gruppo di 4 economisti che si sono chiesti: se passiamo al vegetarianismo, cosa succede del PIL, cosa succede dell'ambiente, cosa succede della fame umana nel mondo, se diventiamo vegetariani, che cosa succede a livello del piacere gustativo, cioè li ho esaminati tutti. Che cosa succede a livello della dieta, cioè quello di Pinelli? Stiamo meglio o stiamo peggio? Quindi, come dicevo all'inizio, il problema animale ha 11 dimensioni come lo spazio delle stringhe nella fisica, matematica, e bisogna tenerle presenti tutte, non solo un animalismo a senso unico. Durante il convegno è stata inoltre presentata una proposta di legge costituzionale. La LAV, Lega Antivivisezione e l'Intergruppo Parlamentare Animali chiedono infatti che gli animali entrino a tutti gli effetti nella Costituzione. Gianluca Felicetti, presidente della LAV, sottolinea infatti come ormai ci siano le basi giuridiche per farlo e ricorda tra l'altro come il Trattato di Lisbona abbia valore paracostituzionale per l'Italia. In questa legislatura, proposte di legge specifiche per l'inserimento della tutela del benessere degli animali ce ne sono pochissime. Sugli animali specifico ce n'è una che verrà ritirata in favore di questa, quindi per la presentazione di questa. È evidente che far scattare un dibattito, un inter parlamentare per la possibile integrazione della Costituzione, tanto più un quadro politico in piena evoluzione, chiamiamolo così, giorno dopo giorno, è davvero un obiettivo audace. Il convegno ha visto diversi relatori trattare la questione animali secondo diversi approcci e punti di vista. Sono intervenuti anche Stefano Rodotà, Anna Maria Procacci e Carla Rocchi, che hanno riassunto queste ultime l'esperienza legislativa sui diritti degli animali. Carla Campanaro e Giuseppe Saieva hanno concentrato il loro intervento sull'esperienza giudiziaria sui diritti degli animali. Estremamente interessante anche l'intervento di Silvia Buzzelli, docente di diritto penitenziario dell'Università degli Studi di Milano Bicocca. La dottoressa Buzzelli ci fa riflettere infatti sulla condizione carceraria degli umani e la condizione degli animali. Non dovrebbe colpire il continuo paragone tra il detenuto e la bestia, perché per chi lavora, per chi opera in una struttura penitenziaria è normalissimo. Quindi quei riferimenti che vi facevo, qui siamo trattati come bestie, non siamo bestie, sono comunissimi. Quindi già una prima riflessione: iniziamo a trattare in maniera dignitosa le bestie, eliminiamo quel riferimento, e qui si potrebbero aprire mille mondi. Poi le alternative. Le alternative ci sono e ci dovrebbero essere per gli umani condannati, perché infatti si parla di misure alternative alla detenzione, e poi per chi è solamente semplicemente innocente, gli animali, lì non ci dovrebbero essere gabbie. Con l'intervento di Stefano Grassi e Francesca Rescigno si è entrati poi nel vivo della discussione. È giusto fare entrare gli animali nella Costituzione? Così Francesca Rescigno. La visione dell'ordinamento normativo in generale è una visione antropocentrica, e in questo sembra che gli ordinamenti giuridici siano rimasti un po' indietro, siano un po' letti, perché se sia la scienza che la filosofia partivano anch'esse da visioni antropocentriche, sono però state capaci, in un periodo medio lungo, di evolversi verso concezioni più aperte alla soggettività animale. Il dibattito dunque è appena iniziato. Anche l'Italia seguirà le orme di India, Germania, Austria e Svizzera, ovvero i paesi dove gli animali sono ufficialmente entrati nella Costituzione? Staremo a vedere. Francesca De Matteis, corrispondente a Roma di Restiamo Animali, dalla Biblioteca del Senato di Piazza della Minerva 38, Roma. Pasto gentile, un frigorifero senza crudeltà. Ciao a tutti. La ricetta che diamo oggi è quella della tortilla de papas alla catalana, che è quella specie di tortino di frittata piuttosto alta di patate che si trova spesso nei tapas bar in Spagna. Vediamo subito gli ingredienti. Per circa 4 persone occorrono 200 g di farina di ceci, che era una di quelle cose che avevo detto di tenere sempre in dispensa, e oggi vediamo come la possiamo utilizzare. 5 patate abbastanza grandi, 2 spicchi di aglio, olio extravergine di oliva, 2 pomodori freschi e maturi, 4 fette di pane, anche pane toscano va bene, e una foglia di basilico e, come solito, sale e pepe quanto basta. Dovete preparare un impasto con la farina di ceci, circa mezzo litro d'acqua, un cucchiaio di olio, un pizzico di sale e un po' di pepe nero, e si lascia riposare tutto in frigorifero per una mezz'oretta. Mentre il nostro impasto di farina di ceci riposa, si sbucciano e si tagliano le patate a quadretti, abbastanza sottili, cioè non proprio a quadretti, a pezzettini. Si fanno scottare per pochi minuti in acqua bollente e poi si scolano e si fanno finire di cuocere in padella con dell'olio d'oliva e uno spicchio di aglio in camicia, cioè con la buccia, che poi andremo a togliere. Passato il tempo di riposo dell'impasto, lo prendiamo e uniamo le patate. Prendiamo una bella padella antiaderente e la ungiamo sempre con dell'olio di oliva, e senza farla scaldare troppo aggiungiamo l'impasto con le patate. Non si fa scaldare troppo perché altrimenti tende ad attaccarsi, non è come una frittata di uova, ma a differenza di questa è meglio che sia l'impasto ben freddo e l'olio non molto caldo. A questo punto lasciamolo cuocere a fuoco lento e coperta con un coperchio che utilizzeremo anche per rivoltarla, e la lasciamo cuocere fino a quando non risulterà bella croccante all'esterno. Nel frattempo possiamo preparare una concassetta di pomodoro, cioè tagliare i pomodori freschi a quadretti molto piccoli, e li condiamo con uno spicchio d'aglio, questa volta privato della buccia, tritato, l'olio di extravergine d'oliva e le foglie di basilico spezzettate. Le aggiustiamo di sale e pepe e con questa salsa fresca ci condiamo delle fette di pane tagliate a metà. A questo punto prendiamo il nostro tortino di patate e lo tagliamo a spicchi, e questi spicchi li andiamo a sistemare sulle nostre belle fette di pane condito. A questo punto non resta che portare il tutto in tavola accompagnato con della sangria per rimanere in stile spagnolo. Buon appetito e vi aspetto alla prossima puntata, e ciao! Tigri di carta, rassegna stampa altro animalista. Questa settimana, vista la carenza, almeno numerica, di articoli riguardanti la questione animale, sui quotidiani ci concentriamo su un unico tema, con riferimento a due articoli, perché ci pare che la questione sia comunque molto importante. Lo spunto è offerto da un appello proposto in Francia da 24 intellettuali di varia estrazione culturale, storica, di competenze diverse, i quali hanno chiesto al governo di cambiare la legislazione per quanto riguarda gli animali e quindi di includerli come titolari di diritti. È un appello importante al quale sono seguite decine, centinaia di migliaia di firme di semplici cittadini, e la questione è stata quindi posta nell'agenda pubblica e politica di quel paese. Ne ha riferito per prima l'Unità nel numero del 25 ottobre con un articolo di Luca Sebastiani nelle pagine della Cultura, e quindi con un'attenzione particolare anche alla storia del pensiero. Il titolo è Etica per gli animali, non più solo cose ma esseri sensibili. un appello degli intellettuali francesi. È un articolo sicuramente ben costruito, approfondito, che mostra anche una certa competenza nell'evoluzione del pensiero filosofico, politico, sociale rispetto alla questione animale. Ne leggiamo qualche passo. Dice Sebastiani: basta sfogliare qualsiasi codice civile più o meno datato per prendere la misura della sicurezza con cui l'uomo ha assoggettato gli altri animali dopo aver asservito l'animale in lui. Questi vi sono infatti generalmente qualificati come oggetti su cui egli può conseguentemente esercitare un diritto assoluto di proprietà. Oggi però la sensibilità rispetto alle bestie nelle avanzate società occidentali è molto evoluta ed i tempi sono maturi per un appello per l'evoluzione giuridica dell'animale, come quello sottoscritto da un gruppo di 24 intellettuali francesi. E qui Sebastiani spiega che nel codice d'Oltralpe gli animali sono ancora definiti beni mobili. Gli intellettuali più noti in Francia fra i firmatari di questo appello sono Edgar Morin, Michel Onfray, Alain Finkielkraut e Luc Ferry. L'ultima riflessione che Sebastiani propone al termine del suo articolo è questa. Oggi gli animali hanno un ruolo ben consolidato nel dibattito pubblico. La teoria sui diritti e la liberazione animale, o più in generale le sorti delle bestie, del loro posto e del loro destino, trova maggiore audience soprattutto perché gli animali hanno un ruolo non aneddotico sulla scena della mondializzazione, in virtù del loro oggettivo protagonismo epidemico, vacche folli, febbri porcine aviarie e genetico, la manipolazione, la clonazione, la pecora dolly. Ancora una volta, in questo millennio in cui tra animalità e virtualità l'identità umana si sta scomponendo e ricomponendo, torna d'attualità l'enigma degli animali. Sono soggetti? Macchine? Cosa vuol dire che sono qualcosa o qualcuno che sta fra un soggetto e un oggetto? Ora che per l'uomo, come scriveva Lévi-Strauss, gli animali restano buoni da pensare. L'altro articolo che segnaliamo è del 27 ottobre, quindi due giorni dopo, sulla Repubblica, un articolo che comincia in prima pagina, scritto da Anaïs Ginori. La titolazione è un po' fuorviante, Ai cani i diritti dell'uomo, la sfida animalista di Parigi. E anche nel titolo interno, Diritti umani agli animali, la battaglia per cani e gatti degli intellettuali francesi fa sembrare che il riferimento di questo appello sia agli animali domestici. In realtà non è così, si tratta di una norma di principio che viene invocata e che dovrebbe riguardare tutti gli animali. L'articolo di Anaïs Ginori, meno approfondito sul piano culturale e filosofico di quello pubblicato sull'Unità, comincia così. Per una volta sono tutti d'accordo, pensatori di destra e di sinistra, europeisti o nazionalisti, conservatori o progressisti, insieme, uniti in un'unica battaglia di principio. Dare agli animali i diritti che si meritano. Non proprio trattarli come persone, ma quasi. In un passaggio Ginori scrive queste parole. Dopo la Dichiarazione Universale dei Diritti Umani, ora quella di cani, gatti, pesci rossi o i maiali? Sembra un controsenso, anche se esistono da tempo studi di bioetica e biodiritto che vanno in questo senso. E poi Ginori riferisce delle normative introdotte a livello costituzionale in Svizzera e Germania, di quella che c'è in progetto in Italia, di cui abbiamo parlato anche noi in questa puntata. Ginori cita un passaggio dell'appello. Anche se gli animali non sono degli esseri umani, dividono con noi alcuni attributi, come la capacità di risentire piacere e dolore. I promotori dell'appello, scrive Ginori, chiedono che sia inserita una nuova apposita categoria nel codice civile. Si tratta di un rompicapo per i giuristi. La separazione fra persone e cose discende dall'antico diritto romano. Si era incominciato a parlare di una riforma del codice già durante la presidenza di Nicolas Sarkozy, ma la pressione delle federazioni degli allevatori e dei cacciatori aveva bloccato tutto. Ora la parola aspetta a François Hollande, che in campagna elettorale si è dichiarato favorevole a una riforma. Una maggiore tutela giuridica degli animali avrebbe conseguenze non solo sul maltrattamento di animali domestici, ma costringerebbe anche a modificare abitudini nell'agricoltura e la ricerca scientifica. Vedremo se in Francia questo dibattito proseguirà. La Bella, la Bestia e l'Umano con Anna Maria Rivera. Maria Rivera, antropologa titolare di questa rubrica, noi oggi parliamo di un manifesto che è comparso nell'isola di Capri, realizzato da un piccolo imprenditore che produce prosciutti. In questo manifesto compare una donna nuda, sdraiata, e in corrispondenza delle natiche ci sono due fette di prosciutto. Il testo che illustra questa immagine è un I am, ma con l'equivoco del io sono rispetto al prosciutto, perché è scritto con l'H davanti, A-H-A-M, quindi il prosciutto, la carne in inglese. Questo manifesto ha destato la reazione, ha suscitato la reazione di molte parti, soprattutto per la lesione, diciamo, dell'immagine e della dignità della donna. Anna Maria Rivera, forse c'è qualcosa anche da aggiungere rispetto a questa immagine, a questa pubblicità? Ma sì, inutile dirlo, benché fatti di questo genere si ripetano ormai, siano quasi la normalità, diciamo, quest'uso del corpo, questa mercificazione in sostanza del corpo femminile, anche per la potenza del mezzo, no? Quel manifesto messo dappertutto, particolarmente scandaloso, ma io oltre a scandalizzarmi mi sono sorpresa per il fatto che nel corso delle reazioni, soprattutto come era immaginabile, da parte femminile, a cominciare dall'assessora, credo, no? Dall'assessora alle pari opportunità del comune di Capri, e poi l'indignazione è dilagata nella rete. Dicevo, in queste reazioni, tutto condivisibili, però manchi un aspetto. Molte utenti dei social network hanno protestato dicendo che è scandaloso che il corpo femminile venga trattato come carne da macello. Il corpo delle donne non è un pezzo di carne, dimenticando che neppure gli animali non umani sono pezzi di carne. Voglio dire, mi è colpita il fatto che coloro che protestano, in maggioranza donne per l'appunto, si indignino per la rappresentazione consumistica, sto citando letteralmente alcune di queste reazioni, del corpo femminile che umilia la donna, senza essere sfiorate dal sospetto che i primi ad essere umiliati e ridotti a merce sono i maiali. Cerco di spiegarmi meglio. Nei termini, se volessimo ricorrere ai termini della linguistica, potremmo dire che quel significato, quel concetto, cioè il corpo femminile rappresentato come divorabile, appetibile, potremmo dire in altri termini, come delle fette di prosciutto, per l'appunto, dicevo, quel significato che viene rappresentato attraverso il significante manifesto, no? Affiche, non si sarebbe potuto costruire se non ci fosse un referente, sempre per ricorrere ai termini della linguistica. E il referente è costituito dal fatto concreto, fatto storico, economico, sociale, culturale, dal fatto concreto che i corpi degli animali da macello siano stati ridotti a pura merce, per meglio dire a corpi torturati, uccisi, smembrati, lavorati. Cioè, voglio dire che se non ci fosse questo referente, non si sarebbe potuto costruire quel significato. Qui c'è un duplice processo di reificazione, anzi più che reificazione, è mercificazione. Se è possibile che qualcuno osi trattare il corpo femminile come una merce appetibile, per l'appunto, è perché prima c'è stato il processo per cui gli esseri viventi, sensibili, intelligenti, eccetera, eccetera, sono stati totalmente mercificati. Fotografie, ricette, interviste, video satirici, approfondimenti e il podcast di questa e di tutte le precedenti puntate nel nostro blog restiamoanimali.wordpress.com. Info e suggerimenti a restiamoanimali@controradio.it. Restiamo animali. Restiamo animali. Restiamo animali. Restiamo animali. Restiamo animali. Restiamo animali.